A tutti i ragazzi e ragazze carissimi e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, la radio che vuole portare l'Immacolata nei nostri cuori. Chi vi parla come sempre è Don Leonardo Maria Pompei, che vi dà il suo saluto chiedendo subito, come già in un'altra circostanza e me ho dovuto fare, perdono per le mie non ottimali condizioni di salute. Mi sono preso una brutta infreddatura e quindi questo comporterà purtroppo qualche piccolo disturbo, insomma, nella nostra trasmissione. Pazienza, me ne scuso, diciamo, fin d'ora con tutti quanti gli ascoltatori. Purtroppo a volte Satanasso fa qualche brutto scherzo. Dunque, se vi ricordate, ci siamo lasciati la settimana scorsa per dei problemi tecnici. Purtroppo non è stato possibile effettuare la diretta e quindi ci siamo dovuti accontentare di una replica. Quindi dobbiamo riprendere la nostra conversazione dalla nostra ultima, diciamo, dal nostro ultimo incontro in radio, che risale a 2 settimane fa. Abbiamo cominciato la trattazione, diciamo, analitica, dire, approfondita, dogmatica, insomma, come preferite, dei peccati contro il sesto comandamento. Se, dopo averli classificati nelle quattro specie, diciamo così, o meglio nei quattro modi con cui si può peccare contro il sesto comandamento, cioè con gli occhi e con i pensieri, con le parole e con gli atti, quindi non soltanto con gli atti come qualcuno crede, scusate, abbiamo cominciato a introdurre l'altra grande distinzione, no? Cioè questi due macro generi di peccati contro il sesto comandamento rappresentati da un lato e dai peccati contro la santità del matrimonio, che è la prima tranche che stiamo guardando, no? E poi ci sono anche i peccati contro la santità della relazione umana tra uomo e donna, argomento di strettissima attualità, come tutti voi credo e spero che ben sappiate. E infine poi ci sono i peccati commessi contro la santità del proprio corpo, quindi questi tre generi in cui per comodità si divide l'ampio panorama, insomma l'ampio parco di peccati che offendono in questa materia nostro Signore. La volta scorsa abbiamo terminato parlando della gravità estrema del peccato di divorzio, ricordando che addirittura nei primi secoli questo rientrava nella categoria dei peccati che si ritenevano fossero non remissibili in questa terra, quindi uno doveva fare penitenza per tutta la vita e poi sperare e confidare nella remissione, diciamo, di questo peccato post mortem. Tanto era grave, lamentando anche, abbiamo concluso così la volta scorsa, il modo con cui, ahimè, questo orribile delitto oggi viene sbandierato, pubblicizzato e fatto oggetto quasi di stima, quasi di cult attraverso le varie telenovelas o i vari talk show o anche reality show, che sono ancora per certi aspetti proprio l'emblema della cosiddetta TV spazzatura. Ricordando che la dottrina della Chiesa, che è la dottrina di Cristo, su questi temi rimane sempre la stessa. E per cui se certamente oggi diventa più difficile per le continue pressioni, tentazioni e suggestioni a cui siamo esposti essere in questa materia fedeli al disegno e al progetto di Dio, non di meno la sua obbligatorietà non ha perso nulla della sua cogenza e della sua urgenza. Anzi, più che mai oggi, si richiede ai cristiani in questo di essere esemplare. Ecco. Anche siamo nel mese dedicato al Sacro Cuore. Apriamo una piccolissima parentesi su questo argomento. Sapete che il Sacro Cuore nelle sue rivelazioni, oltre che a chiedere la corresponsione al suo amore, ha chiesto anche la riparazione per coloro che oltraggiano o disprezzano o profanano o trattano in maniera irriverente il mistero adorabile del suo cuore, soprattutto del suo luogo di pulsazione viva e vera, che è il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Pensate oggi, adesso che arriva l'estate, non voglio dire sempre le stesse cose, però se almeno gli ascoltatori su questo fossero ligi e forti, già qualcosa si comincerebbe a muovere, perché noi adesso dobbiamo combattere dei costumi largamente diffusi. Come si fa a farlo? Ragazzi e ragazze carissime, ci deve essere qualcuno che comincia a fare il contrario, che ci abbia, ecco, non posso dire che cosa, che ci abbia coraggio, che ci abbia, si dice in gergo comune, forte motivazione, forti attributi, ecco, per dire no. E non soltanto per fare il contrario, anche per fare qualcosa di più. Nell'atto di riparazione che si è letto, spero, anche nelle vostre parrocchie, perché l'ha chiesto Nostro Signore il giorno della festa del Sacro Cuore, cioè venerdì scorso, c'erano proprio una serie di cose, tanto più le persone saranno profanatrici, irriverenti, quanto più noi cureremo la modestia e la verecondia. No, d'accordo, per cui a volte a me, che sono considerato un po', a torto ragione, non lo so, l'antesignano di certi fronti e di certe battaglie, mi cominciano a dire: ma padre, mi metto la gonna, mi posso mettere i pantaloni, mi metto il velo, posso andare senso di qua, di là, a destra e a sinistra. Non si tratta di peccato, non peccato, non si fa peccato purché uno sia vestito in maniera decente, d'accordo? Quindi non è assolutamente indispensabile, non dobbiamo uscire da una mentalità strettamente giuridica, perché se uno si veste in maniera modesta, si mette un bel tailleur non attillato con una giacca lunga, quindi che copra i glutei, elegante, non c'è nessun problema, cioè non è che può dire quella donna è una sconcia, offende Dio perché sta con i pantaloni e si è con la gonna, bisogna vedere che tipo di pantaloni, d'accordo? Quindi però, quindi un conto, però un conto è la decenza, che tutti la devono osservare. Un conto è la modestia, cioè che è quella cura ulteriore, cioè io non mi accontento di ciò che non offende Dio, ma faccio ciò che preferisce Dio anche per riparare il meno che fanno le persone che offendono Dio. Allora, le donne oggi vanno in giro nude e io mi metterò una gonna un po' più lunga del solito, non soltanto una gonna un po' più lunga di quanto sarebbe strettamente necessario. Non perché sia indispensabile, ma per offrire al Signore un sacrificio di riparazione. Le donne sono un campionario di vanità, a volte veramente insopportabile. È obbligatorio oggi portare il velo in chiesa? Bah, se uno guarda la legge della Chiesa, c'è un decreto del successore di San Pietro, di San Lino, che non è stato mai abrogato. Per chi volesse approfondire, basta che visita il mio blog www.domina mea et mater mea. Blogspot.com, mi sembra, e trovo tutto un articolo dove c'è tutta la storia di questa cosa. Tuttavia, questa prassi, come sapete, negli ultimi 50 anni è caduta in desuetudine, per cui non si può dire che una donna che va in chiesa senza velo pecca. È una cosa eccessiva. Però sicuramente si può dire, se una donna ha il coraggio, perché oggi ci vuole coraggio, di compiere questo gesto libero e spontaneo. Perché noi dobbiamo entrare, ragazzi, io spero che voi lo facciate quanto prima. San Paolo dice che la legge è fatta per il peccatore, non per il giusto. Cioè noi non dovremmo, io lo parlo io, sto parlando della legge in questi incontri, no? Quindi i 10 comandamenti, la legge certamente bisogna osservarla. Ma noi dovremmo fare altri incontri, noi qui dovremmo parlare non dei 10 comandamenti, dovremmo parlare delle 8 beatitudini. Forse un giorno ci parleremo. Quindi non di come si evita di offendere Dio mortalmente, di cui dovremmo parlare. Dobbiamo parlarne oggi, sapete perché? Perché la gente non si rende minimamente conto di peccati gravissimi che offendono Dio e che vengono fatti dalla gente senza neanche pensare che siano dei peccati. Quindi noi siamo costretti oggi a fare delle cose che agli occhi dei nostri nonni o dei nostri bisnonni appaiono completamente ridicole, perché tutte le cose che io vi sto dicendo, se la mia bisnonna, se l'anima della mia bisnonna viene dentro questa cameretta e si mette a sentire, mi comincia a dire: è tutta sta scienza, don Leonardo, io queste cose sono analfabeta, le sapevo meglio da quando avevo 4 anni. Perché così è. Quindi, tornando al discorso, dice, non è obbligatorio, no, quindi se te lo metti fai peccato, non fai peccato, sta tranquillo. Se te lo metti fai una cosa gradita a Gesù, graditissima, che ripara anche per tante donne svergognate, sciagurate, come diceva Padre Pio, che altro che velo, entrano in chiesa mezze nude. E se vanno pure a fare la comunione, con le ministresse straordinarie, perdonatemi se ogni tanto ne sparo qualcuno, che vanno a dare la comunione con le mani ingioiellate, che sembrano le statue delle Madonne meridionali, con 377.000 anelli, lo smalto rosso come il fuoco, e la scollaturissima, la vinicomme. Scusate ragazzi, voi pensate che quest'altro non offenda Gesù? E pensate, quest'atto non esiga riparazione, che Gesù non sia contento se una signorina dice: guarda, signore mio, sono la l'ultima di tutti quanti i peccatori della terra, sono molto peggio di quella lì, di quella povera mia sorella, perché se non mi avessi fatto tante grazie, io avrei fatto peggio di lei, e questo tutti dobbiamo pensarlo. Questa umiltà, dice San Tommaso d'Aquino, è doverosa e tutti dobbiamo averla. Però per tua grazia a questi livelli o non ci sono arrivato, oppure se ci sono arrivato ne sono uscito. Adesso io per riparare presso il tuo cuore questa inverecondia, questo oltraggio, che magari non sapendo quello che fa, sicuramente non rendendosi conto di quello che fa, ti fa questa persona, mi metto il velo in chiesa. Sono l'unica persona nella mia parrocchia e tutti mi guardano, tutti mi dicono che sono bigotta, che sono una matta furiosa, che mi sono fatto fare il lavaggio del cervello da Don Leonardo, perché da queste parti questo dicono, che Don Leonardo è un pazzo scatenato che obbliga le persone a sentire in giro tutte queste robe qui, io ormai mi ci sono abbastanza abituato, io chiaramente li lascio dire, perché poi il Signore sa come vanno realmente le cose, io ho mai detto mezza cosa e mai obbligato a nessuno, chiunque può venire da queste parti e chiedere in giro alle persone che frequentano, se io ho mai imposto obblighi a nessuno su queste materie, cosa che non si deve fare perché non sono obbligatori e io mi guardo bene dall'imporlo, però è l'amore, capite? È l'amore. Adesso voi sapete che quando si parla di apparizioni non riconosciute bisogna essere sempre cauti, prudenti, e io non mi sogno minimamente di voler precedere o precipitare i giudizi che spettano soltanto alla Chiesa, no? Voi sapete che però sulle apparizioni non riconosciute e non condannate un fedele è libero, fino a prova contraria, di prestargli un certo credito, d'accordo? Allora, supponiamo che appaia la Madonna a Medjugorje, come io personalmente mi sento portato a ritenere. È una mia opinione personale, potrei tranquillamente sbagliarmi. Se domani la Chiesa dovesse dire: lì sono tutti matti e passo il demonio, io sono il primo a sottoscrivere quella cosa e dimentico completamente questa apparizione, d'accordo? Però questo ancora non è successo. Quindi anche tutti questi putiferi, anche online, ogni tanto vedo le cose, Medjugorje è un inganno del demonio, è successo pure quegli altri che vanno appresso a qualche noto conduttore radiofonico, no, Medjugorje è il paradiso sulla terra, certo, cioè con posizioni estreme. E io dico, calma ragazzi, uno vuole andare a Medjugorje, vai tranquillo, vai a fare un bel pellegrinaggio, prega la Madonna, la cosa importante è che metti in pratica quello che ti dice. Tra le cose che la Madonna dice, le dice alcune che sono molto impegnative, io lo riconosco, sono molto impegnative. Provate a fare digiuno a pane e acqua per 24 ore, mercoledì e venerdì. Io qualche anno fa non sapevo che il digiuno di Medjugorje era di 24 ore, quindi io stavo tranquillo perché mercoledì e venerdì, magari so, a pranzo mangiavo un po' di pane, un po' d'acqua, poi a colazione mangiavo normalmente la sera pure. Dopo un giorno ho scoperto che non era così, che era da mezzanotte a mezzanotte. Dico, oh signore, dico, questo è 2 volte a settimana, una cosa del genere. Dico, però. Se io sono portato a ritenere attendibile questa apparizione, è chiaro che questo lo devo mettere in pratica. Altrimenti devo dire che non ritengo attendibile l'apparizione. Certo che non c'è nessun obbligo, se non faccio il digiuno mercoledì o venerdì che mi devono confessare, ma assolutamente no. Ma se questo è un desiderio della Madonna, e io sono consacrato alla Madonna da tanti anni, e già la Madonna ogni volta che guarda verso di me si deve girare dall'altra parte, perché mi dovete credere, non dovete pensare che chi vi sente sia niente di buono. Io sono un ammasso incalcolabile di difetti. Credeteci, perché ogni tanto mi arriva un'attestazione un pochino irrealistica da parte delle persone, mi metto a fare confessioni pubbliche, se non ci credete. Anziché confessarmi dal sacerdote, mi confesso, ecco. Quindi non sono vere tante cose. Però un pochino di bene vorrei volerglielo alla Madonna. Se so questa cosa che gli fa piacere, mi costa un sacrificio, e la Madonna stessa, ammesso che appaia a Medjugorje, quindi usiamo il condizionale, avrebbe detto: stanno tutti a lamentarsi, il digiuno, mi viene il mal di testa, mi viene questo, mi viene quell'altro. La Madonna dice: non c'è amore, dice queste parole, non c'è amore. Fate questa cosa con amore e riuscirete a farla. Se tu pensi che questa è una cosa che la Madonna la gradisce e che lei la prende nelle sue mani e la offre al Signore per trattenere tutti i fulmini che dovrebbe mandarci, e scusate che ce ne stanno tante di motivazioni, non ultime quelle che abbiamo visto 2 giorni fa per mandare i fulmini anche in Italia. Scusate, ogni riferimento è puramente casuale. Che facciamo? Lasciamo da sola la Madonna. Non ci uniamo a lei nel combattere una battaglia riparatrice? Non volete voi che mi state ascoltando essere i primi della classe? Perché no? I primi della classe, le armate della Madonna. San Luigi parla degli apostoli degli ultimi tempi, cioè di quelli che non si accontentano di dire un rosarietto una volta tanto, dice vabbè, sono devoto alla Madonna perché dico un rosario al giorno. Per carità, è già tantissimo, ma è poco, è tantissimo sotto certi aspetti, è poco sotto altro. Perché diceva San Pio che la vera devozione consiste nell'imitazione, nell'imitazione e nell'obbedienza. Quindi se la Madonna dà dei suggerimenti, per questo io consiglio a tutte le anime consacrate, andare a studiarvi bene, almeno le apparizioni riconosciute. Se non ti va di fare il digiuno a pane e acqua di Medjugorje, basta leggere Lourdes e Fatime, fai le penitenze che ha fatto Santa Bernadette, riconosciute. Santa Bernadette gli ha fatto mangiare l'erba. La siete mai mangiata l'erba voi che mi state ascoltando? Vi ha fatta mangiare a Santa Bernadette? Eh? Mettiti in ginocchio e mangia di l'erba come penitenza per i peccatori. Andate a leggere le apparizioni di Lourdes. Un'altra volta gli ha detto bevi alla fonte quando ha fatto sgorgare la fonte miracolosa da vicino al Gav. Sta poraccia da fonte non la vedeva, andava al fiume a bere il concetto d'acqua. La Madonna gli ha fatto no, no con le mani. Non è lì, è qui. E gli ha indicato un posto sotto i suoi piedi dove l'acqua non c'era. C'era soltanto della terra sporca d'acqua. E sta poraccia ha preso e cominciato a mangiare la terra sporca d'acqua. Questo sta nella storia delle apparizioni di Lourdes, eh? Apparizioni di Lourdes che sono riconosciute. Quindi, non vuoi fare digiuno a pane l'acqua? Va benissimo, mangia del pochetto d'erba e mangia del pochetto di terra fangosa. È più pericoloso quest'altro, che forse con la terra fangosa ci viene il tifo oggi che la terra è inquinata, non lo so che succede, no? Perdonatemi che ogni tanto scherzo un po'. Però anche su questo argomento, noi stiamo parlando della legge. Però. Io sono certo che molti di voi saranno illuminati, io lo vedo perché anche se in diretta mi dicono che non telefonano perché vogliono stare a sentire, anche perché io quando comincio non mi fermo più, poi però mi arrivano i riscontri tramite internet, tramite il mio profilo Facebook, tramite email, tramite tante cose, dove vedo che più di qualche anima ringrazia semplicemente per il fatto che chi vi parla, adesso riprende le vesti, fa il pappagallo, l'ho detto tante volte, parlante, cioè io sono l'eco di ciò che Gesù, la Bibbia, il Vangelo e il Magistero della Chiesa insegna. Quando parlo in questo ufficiale, nulla di più. Ogni volta che devo dire qualcosa di mio, di quali fate l'uso che volete, se volete prenderlo e fare finta di non averlo mai sentito, fatelo tranquillamente, perché tanto sono sproloqui fatti da un peccatore, lo dico. Dico, adesso ragazzi, stare attenti perché qui, come ho detto prima, la posizione su Medjugorje è una posizione mia, personale, non voglio assolutamente influenzare nessuno. Non è tra l'altro una cosa che tu dici sei sicuro al 100%. Da un'analisi complessiva di tanti fattori, anche se ci sono alcune zone d'ombra, però ragazzi, io l'ho studiate le apparizioni mariane, che quelle riconosciute, vi posso dire che difficilissimo è il compito degli uomini di chiesa. Che devono fare un discernimento, perché guardate che anche nelle cose che vengono da Dio, la perfezione allo stato puro, non scandalizzatevi di questo, non si trova. Perché vengono da Dio nell'origine, ma poi purtroppo vengono gestiti e affidati dagli uomini. E c'è sta Satanasso che fa di tutto per metterci qualche pulce nell'orecchio, per fare in modo che quel progetto divino sia in qualche modo fermato, vanificato. Questo è un grande mistero, perché io tante volte glielo ho detto al nostro Signore, dico, senti un po'. Ma tu sei più forte di Satanasso, ma farlo sta fermo a questo qui un po', no? Perché gli permetti di fare queste cose che dopo veramente chi guarda dice ma c'ha ragione qualcuno che ne vede a farsi venire qualche dubbio? Però purtroppo il nostro Signore questa mia preghiera, la mia, non la sente, d'accordo? Quindi bisogna chinare la testa e fare un passo indietro dinanzi a questi misteri dell'operare di Dio, cioè nel senso che il Signore potrebbe, ma il Signore permette anche al demonio di tentarci, no? Non potrebbe averlo, non potrebbe rinchiuderlo in un carcere e non fargli fare niente. Scusate, no? Il fatto che gli permetta di fare queste cose, noi lo capiamo soltanto in parte, ha sempre un bene maggiore. Che se noi, perché lui comunque ci dà tutti quanti gli aiuti, e se non siamo matti o precipitosi nel fare giudizi troppo semplicistici, ma usiamo la virtù cardinale della prudenza, eccetera, stando tranquilli, aspettando prima di sparare giudizi. Attendendo, se si vede qualcosa che non va, va bene, ne prendo atto, continuiamo ad analizzare senza precipitare troppo in fretta. Poi piano piano le cose si fanno chiare. Ho fatto un sacco di sproloqui, non stiamo parlando del sesto comandamento, quindi questo per dire, per introdurre il discorso di oggi. Allora, Dopo l'adulterio, tra i gravissimi peccati che ledono la santità del matrimonio, c'è il divorzio, una vera e propria piaga sociale, una maledizione, ecco qua, proprio una sciagura. Non ci sono parole per descrivere questo sciagurato istituto. E non mi si venga a dire che io dopo, guardate, che ogni tanto mi arrabbio un po', che ci sono alcune situazioni difficili, che le famiglie a volte, se non si separano, vanno a finire a coltelli. Questo è lo stesso discorso sciocco che fanno oggi quelli che vogliono per forza i matrimoni gay. Uguale. Scusate, la Chiesa, l'abbiamo visto già in qualche forma, ha sempre ammesso in certe circostanze la separazione. Ce ne sono due. Io non mi ricordo se ne ho parlato nelle puntate precedenti, adesso le ridiciamo. Sono due i casi in cui, secondo il diritto canonico, è possibile non divorziare, separarsi. Perché non divorziare ma separarsi? Per due motivi. Primo, perché il matrimonio davanti a Dio è unico e indissolubile. Una volta contratto, uno è e uno rimane. Se il matrimonio naufraga, permane nel vincolo. Non permane negli risvolti pratici del vincolo, cioè se tu ti sei sposato un pazzo, d'accordo, che è un briacone, che è un violento, e non c'hai la santità eroica di Santa Rita che se prendeva le botte e offriva al Signore l'ha convertito, oppure ti ammazza di botte davanti agli occhi figlio, dici, ma questo come faccio a rimanere con questo? Ti puoi separare, certamente sì, sta scritto nel diritto canonico, ma non andare a rifare un'altra famiglia, perché nella mens della Chiesa l'istituto della separazione è sempre temporaneo, si spera, perché gli uomini possono cambiare, si possono convertire. Quindi può darsi che uno gli passano i bollenti spiriti, sta un tempo da solo, medita, pensa e poi ritorna con la moglie pentito. Ragazzi, se il signore, e se il signore facesse il divorzio con noi? Che vogliamo fare? Sapete che nel libro del profeta Osea il peccato dell'uomo viene descritto come adulterio. Allora dovete sapere che l'adulterio è l'altra causa giusta di separazione. Quindi se io, Dio non voglia, venga a sapere che il mio coniuge mi ha tradito e non riesco a perdonarlo, dice la Chiesa, il diritto canonico, poi ve li citerò i numeri, è possibile interrompere la coabitazione, ma non divorziare. Il libro del profeta Osea dice, guarda che quando fai un peccato mortale, tu fai un peccato di adulterio, perché Dio, che è il tuo sposo e vuole l'unità, una sola cosa con te, è da te tradito per rivolgerti all'idolatria del mondo, del demonio e del peccato. E se Dio si offendesse e dice adesso facciamo il divorzio? Quindi non ti perdono più, hai fatto quel peccato, non c'è più possibilità di salvezza. Vattene all'inferno, crepa, via, finito. Chi di noi sarebbe contento? E non possiamo farci niente, che purtroppo, cioè, a volte, cioè, l'uomo è debole. Nessuno è sa, cioè, io ragazzi carissimi, vi posso dire, man mano che vado avanti nel ministero, il Signore nella sua provvidenza mi sta facendo conoscere le mie debolezze. Attenti a quello che significa, eh? Cioè, mi fa perfettamente percepire che io in tante situazioni, se non ci avessi la sua mano sulla testa e la sua forza straordinaria, come dice San Paolo, butterei tutto per aria. Lo farei. Spero che non vi scandalizziate, perché questo c'è in me. Se non lo faccio è perché il Signore mi aiuta, non perché io sono bravo. E anche grandi santi, stiamo parlando del sesto comandamento, San Francesco si è dovuto rotolare nudo in mezzo alla neve di fronte a una tentazione impura. Non è che se uno è santo, come dire, ha trovato la pace dei sensi. Non è vero affatto questo qui. Non è vero affatto, non mi scandalizziate, può essere tentato un frate, può essere tentato una suora, anche una frate o una suora, che a tutto pensano meno che a quello, d'accordo? Perché fino a quando siamo in questo mondo, magari tu sei stato 50 anni tra coloro che sono sospesi, libero completamente da ogni pensiero strano, boom, una bella notte, prima di andare a dormire, boom, pensiero balordo, e cominci a vedere che ti vengono delle reazioni strane. E allora? Non dobbiamo assecondarle, perché sennò si fa peccato mortale prima di pensiero e forse pure di atti. Ma noi non possiamo impedire a una tentazione di venirci. E è un pensiero balordo di affacciarsi alla nostra mente. Santa Fausto diceva che non sono peccati gli mali pensieri, ma gli mali consensi. Allora, niente divorzio, perché si spera. Dice, ma guarda che questo me l'ha fatto quante Carlo in Francia, questo è un balordo, ma ammazza di botte, beve, dilapida il patrimonio, va al casinò a giocare a carte, non lo so, alla slot machine, non, vendete tutto quello che volete. C'ha la suocera che sta sempre dentro casa, non la sopporto più, la sbatterei al muro, che meno l'avete meglio sto. Tutto quello che volete. Non ce la fai più? Ti prendi un periodo di pausa. Ma è temporaneo. Tra l'altro la Chiesa dice quando non c'è un motivo grave di valutarlo bene. E di chiedere consiglio anche all'autorità ecclesiastica prima di fare un passo del genere. Chi fa queste cose tra i fedeli poi me lo farete sapere, ma questo sta a titolo di diritto canonico. Allora, quindi il divorzio è la sciagura delle sciagure. Perché per ovviare, dici, sai, ci sono delle condizioni in cui la convivenza diventa impossibile. Ti separi. Quello che non è possibile è esattamente quello che il divorzio consente, cioè distruggere un matrimonio e farti un'altra vita. Con gravissimo danno sia per la persona con cui stavi, sia per i figli, che soffrono di questo, tutti soffrono di questo. È inutile che a me fanno arrabbiare poi quei divorziati che vengono a dire: ah, ma mio figlio sta crescendo e poi capirà, ha capito cosa? Quello è privato del diritto sacrosantissimo che c'ha di crescere con un padre e una madre. Balordi. Balordi, ma un padre e una madre, e ha il diritto di non vedere a fianco al padre e alla madre Pinca Pallina o Pinco Pallino che prendono un ruolo che loro non è. Questo è un diritto di un bambino. Oh, e nessuno lo può violare. Poi fa tutte le leggi fortuna che ti pare. Infatti Gesù un giorno dice: non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Che vuol dire? Non t'azzardà. Cioè, certo che sarebbe materialmente possibile, faccio una legge. Gesù è vissuto ai tempi dell'Impero Romano, ai tempi dell'Impero Romano c'era la legge del divorzio. Io ho studiato, ci ho fatto la tesi di laurea in giurisprudenza sul diritto romano. Nel diritto romano c'era l'istituto del divorzio. Tranquillamente era una cosa normale, da un punto di vista civilistico. Questo deve essere tranquillamente una cosa comprensibile, ma non da un punto di vista di figlio di Dio e di rivelazione. Sono le 5, ragazzi, gentilmente. Facciamo sempre la nostra piccola pausa invocando la Madonna e poi continuiamo a parlare di questa sciagura che è il divorzio. Ave Maria. Grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Quindi il matrimonio è intrinsecamente indissolubile. Vi dicevo, perché non si doveva fare il divorzio? Per lo stesso motivo perché non si devono fare le unioni civili dei gay. E le delle coppie di fatto. E qui io vi parlo non solo da prete, ma da uomo della legge. Perché io l'ho studiata la legge. Non voglio, l'ho semplicemente studiata perché tutto pensavo di fare nella vita meno che prete, d'accordo? Ecco, quindi non c'è nessun titolo di merito in questo, però l'ho studiata. Ecco. Allora, ci stanno degli istituti con cui uno, allora, se una persona non ha figli e moglie, tu dici, se muore che succede? Se muore, fai testamento. Nomini il tuo convivente che è erede universale, tutti i soldi vanno a lui, nessuno può aprire bocca. Perché gli eredi legittimi sono il coniuge e i figli. Il coniuge non ce l'hai, i figli non ce l'hai. Finito. Se tu fai le follie, capito? Perché poi ogni tanto stanno pure le follie, che tu magari c'hai un figlio e papà convive, e va bene, la metà del patrimonio andrà al figlio e la metà del patrimonio va al convivente, così come sarebbe se fosse lo sposo, uguale, non potrai disporre della metà del patrimonio. Qual è il problema? Dice la casa e la casa te la cointesti, e il conto in banca e il conto in banca te lo cointesti. Io ho conosciuto persone che hanno anche convissuto e poi sono convertite. Saranno giunte quanto organizzate. C'è solo una cosa, una, che non si può avere. E pazienza, insomma è tutto dalla vita, la pensione di reversibilità, che tra l'altro non si può avere sempre, in tutti i casi, e in ogni forma, e in ogni luogo, che comunque sono quattro soldi, d'accordo? mio padre è morto, mio padre faceva l'ingegnere, era uno che stava bene. La versione della versibilità che prendeva mia madre dopo la morte del mio padre faceva ridere le galline, d'accordo? Con una cosa del genere non ci capi manco e prendo un caffè al giorno. Quindi, qual è questo grande danno? Il grande danno invece sarebbe parificare e dire pubblicamente con una legge che tra questa forma di unione e quella naturale non c'è nessuna differenza. O questo o quello, libera scelta, inviolabile e insindacabile della persona e uguale tutela giuridica. Quando evidentemente, per ovvie ragioni, mentre che dalla famiglia naturale anche lo Stato trae un beneficio, perché la famiglia naturale fa i figli che sono un patrimonio per lo Stato, perché sono i futuri cittadini. Quindi io tutelo e promuovo anche ciò che è nel mio interesse da un punto di vista giuridico. Oh, io non ho nessun interesse che tu vai a convivere con una persona dello stesso. Non ti condanno, non ti giudico, non ti discrimino, non ti metto al rogo, niente di tutto questo, d'accordo? C'hai tutti gli strumenti di un ordinamento civile dove andarti a sistemare i tuoi interessi, convivi, vai a fare vacanze, fa tutto quello che ti pare. D'accordo? Ma senza la mia benedizione. Stessa cosa valeva per la separazione. È stato un errore, un crimine gravissimo e che offende gravemente Dio. Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Non osi. Ecco perché i divorziati e gli sposati non possono accedere alla comunione. Per questo. Perché si trova in uno stato di peccato mortale perpetuo non reversibile. E il beato Giovanni Paolo II ha spiegato nella famiglia del consorzio che c'è solo un caso in cui una famiglia di divorziati e risposati può tornare ad accedere alla Santa Comunione, cioè quando si è in presenza di figli piccoli, supponiamo che due avevano due matrimoni alle spalle, si sono separati e divorziati, si sono risposati tra di loro, hanno fatto tre figli piccoli. Quindi, oltre ai figli che c'erano prima, mo ci hanno messo di mezzo altre tre creature che pure loro hanno diritto a crescere col padre e con la madre, anche se sono figli di un'unione di un'unione non benedetta da Dio, diciamo così. E allora che facciamo? Se questi si pentono e si convertono, cosa facciamo? Perché che fai? Gli fai interrompere la coabitazione, così fai un altro danno. Perché vai a privare queste povere creature nate dalla nuova unione del diritto di crescere col padre e la madre. Quindi cosa ha detto Giovanni Paolo II? Che fanno voto di castità davanti a un sacerdote, la notte dormono in camere separate, ognuno per conto suo, e vanno a messa in un posto dove non sono conosciuti, non per motivazioni farisaiche, come dice qualcuno, ah, il fariseo perché uno deve scandalizzarsi di quello che dice la gente, ma non deve scandalizzare la gente, non di quello che dice la gente, perché se stai in un piccolo centro dove tutti sanno che tu sei accompagnato con i matrimoni alle spalle, se ti vedono andare a fare la comunione e il prete che te la dà, numero uno la gente dice, ah, allora c'è nessun problema, ormai la comunione si può fare anche solo divorziato e risposato, tanto il prete gliela dà, capito? Per cui si può accedere alla comunione, però facendo, cioè quando vuoi farti la comunione devi andare in una parrocchia dove non sei conosciuto. E quando vai nella parrocchia dove sei conosciuto, la comunione non te la fai. Magari vai a messa il sabato sera e la domenica, se, perché dici io devo forza cambiare parrocchia. No! E ti comporterai così, no? Quindi crimine gravissimo e guai a chi ha votato per il divorzio, questo l'ho detto già da tante volte, eh? Guai a chi ha votato per il divorzio perché il divorzio è stato fatto in Parlamento. Poi ci sono quei criminali di italiani e sono criminali, eh? Non mi interessa se qualcuno si scandalizza di questo linguaggio che adopero perché è da adoperare in questa circostanza, criminali, perché come diceva Padre Pio, Dio chiederà conto a chiunque ha messo una crocetta sopra quel non voglio che sia abrogata, quindi ha votato no. Sapete come funzionano i referendum in Italia? È stata fatta la legge Fortuna nel 70, qualche anno dopo, su azione dei cattolici, è stato indetto un referendum per abrogarla. Quindi bisogna rispondere: sì, voglio che sia abrogata questa legge maledetta. E molti hanno detto no, si presero una batosta perché oltre il 60% degli italiani approvarono il divorzio. Complimenti. Congratulazioni. Io vi dico in nome di Dio che tutte queste persone, anche chi si è confessato, almeno come ricordo, c'è il perdono per questa cosa, ma quando sono dall'altra parte se la ritrovo quella legge, ecco. E il Signore farà vedere le famiglie che si sono sfasciate per colpa di quella maledetta legge a cui anche tu hai dato il tuo contributo. A me dispiace dire queste cose, ragazzi, mi piacerebbe che non fosse così. Però vi ricordo le letture di domenica scorsa. Cioè, non si possono fare peccati a cuor leggero, perché non è poi soltanto il problema di andarsi a confessare e di essere perdonati. I peccati hanno delle conseguenze, i peccati si scontano. Qui o dopo. Davide ha fatto adulterio e omicidio. Ha dovuto subire la rivolta contro di sé, il tentato omicidio da parte del figlio e tutte le sue donne gli sono state rubate, non in segreto come ha fatto lui con Bezzabea, ma in pubblico davanti a tutti. Ed è dovuto scappare da Gerusalemme, sull'erta del Monte degli Ulivi, seguito a sassate da un membro della famiglia di Saul che lo riempiva di parolacce. E lui zitto e muto, a capo chino e a piedi scalzi, come grandi penitenti, che si prendeva le sassate, le manciate di sangue, di fango, di polvere, e le parolacce di questo. E quando un suo luogotenente, il figlio di Geruia, gli ha detto: guarda, che mo adesso prendo una spada e gli taglio la testa a questo bifolco che si permette di oltraggiare in questo modo il re. Davide si è arrabbiato e ha detto: che ho a che fare io con voi, figli di Zeruia? Se questo maledice è perché il Signore gli ha detto maledici Davide, perché me lo merito. Forse guardando la mia umiliazione il Signore avrà pietà di me. Non si fanno i peccati a gratis, ragazzi, la misericordia di Dio c'è, ma purtroppo le conseguenze nefaste degli atti ci rimangono e bisogna pensarci prima. Cioè, se uno ha fatto il delitto d'aborto, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto il quinto comandamento, tu ti puoi confessare quanto ti pare. Ma quel ragazzino purtroppo non risuscita in questo mondo. Gli fai dire la messa per le anime del purgatorio, andrà direttamente in paradiso, ma venire su questa terra e compiere la missione che Dio gli aveva affidato, non lo farà. E ci stanno santi. Ora, come mai che falliscono tanti matrimoni? Come mai che falliscono tanti matrimoni? Non ve lo siete chiesto? Come mai? Che è successo oggi? Allora, non so se facciamo in tempo oggi, la prossima volta vi dirò un pochino di numeri, tra l'altro anche datati a quasi un anno, di cifre da capogiro sull'aumento delle convivenze, delle separazioni e dei divorzi. Ma io vi dico, come mai aumentano i divorzi? Se voi andate sul mio canale YouTube e andate a cercare Elogio della Castità, testimonianza di Jason e Cristalino, una coppia di americani, quando loro raccontano la loro scelta casta durante il fidanzamento, dicono che l'80% dei divorzi negli Stati Uniti provengono da persone che hanno avuto rapporti prematrimoniali. Un matrimonio è una cosa seria, ragazzi. Seria. Non è facile tenere unita una famiglia. Non ce la farai mai con le forze tue umane. Vi chiedo, che bisogno c'era che Gesù Cristo istituisse il sacramento del matrimonio quando gli uomini si sono sposati da sempre? Cioè, mentre gli altri sacramenti, per esempio la messa, prima di Gesù Cristo non c'era, perché non esisteva. Il battesimo sacramento, prima di Gesù Cristo non c'era, c'era il battesimo di San Giovanni. L'unzione degli infermi, scusate. Prima di Gesù Cristo non c'era, la stessa cosa vale per la cresima, per la confessione, ma il matrimonio c'era. Non è che gli uomini hanno cominciato a sposarsi da dopo che Gesù Cristo è andato alle nozze di Cana a benedire il matrimonio degli sposi. E perché è istituito un sacramento? Così, per folklore, per bellezza, perché così in chiesa è più bello, c'è l'abito bianco, che dopo ne parleremo un attimo dell'abito bianco, c'è la marcia nuziale, d'accordo? C'è il riso alla porta, c'è la Jaguar blu che viene a prendere. Invece al comune ci sta un tizio, insomma, con sta fascia tricolore, ambiente squallido, sala comunale, quindi è più bello in chiesa. Questo è il motivo per cui Gesù Cristo istituì il sacramento? È questo? Ha istituito il sacramento per un motivo molto semplice, che se tu non ricevi la grazia di Dio, le due cose del matrimonio, cioè l'indissolubilità, cioè rimanere insieme finché morte non ti separi, qualunque cosa succeda. Secondo, l'apertura alla vita, farli i figli, che bisogna farli, parleremo. Il matrimonio non è per l'egoismo della coppia che si guardano in faccia, io ti amo, tu mi ami, andiamo quest'estate in vacanza a Baltimora, l'anno prossimo andiamo alle Seychelles, l'anno prossimo andiamo a che ne so, a come si chiama, a Stintino in Sardegna, stiamo soli soletti e ci divertiamo. Non è questo il matrimonio che ti serve, a fare figli il matrimonio. Quanto il padre non lo vuole. E poi non basta farli, bisogna pure educarli. E per educarli bisogna tribolare e soffrire. E oggi più che mai. E se c'è un guaio grosso che io constato costantemente è la cruda verità della profezia di Padre Pio. Verranno genitori incapaci di educare i figli. Io sono anni che mi sgolo su tante cose, c'ho anche un bel gruppo di giovanotti, ma voglia sgolarmi. Alla prima festa del compleanno, dei 18 anni, ma come li vedi conciatere, signorine? Né più né meno che come le loro coetanee, cioè che sembrano, perdonatemi il paragone, signorine di strada, con gonne ultra corte mozzafiato, toppini ultra scollati mozzafiato, e ti viene la depressione. Dice, ma io a questi che gli ho insegnato? Ma scusate, le dicevo, ma questa un padre non ce l'ha, ma chi gliel'ha comprato quel vestito? Cribbio. Io non posso mica andare dentro casa e più arrandellare il padre. O posso mica andare nelle boutique a controllare che quello che gli fa comprare la madre, ma che gli faccio? Se io dico una cosa e non ho un supporto da parte dei genitori, almeno al minimo, non dico che devi comprare un vestito da suora come le nostre suore, lungo fino ai piedi e con un'ampiezza tale che veramente. Cioè, però dico, santo cielo, compra una cosa carina, compra una cosa elegante, compra pure una gonna a ginocchio, tiè, compra pure una cosetta a maniche corte. Ma non esagerano così, no? E che gli faccio io? A voglia predica, che gli faccio? Che faccio? Qualcuno può fare una telefonata che mi dice, don Leonardo, fa così, se c'ha qualche ricetta. Allora, questi sono i genitori incapaci, purtroppo, deboli, che risponderanno gravissimamente, io mi sto a rileggere la vita del santo curato d'Ars. Se lamentassero Don Leonardo, alcune cose così come l'ha detto Don Curato d'Ars, non l'ho mai detto e non è detto che non lo faccia. Il Curato d'Ars tuonava contro i genitori, dicendogli: guarda che tutte le colpe delle figlie tue te le sconti tu. Mandala a ballare. Lui ce l'aveva a morte col ballo. Quel ballo, tua figlia c'è andata, ma tu ne rispondi davanti al Padre Eterno, non lei. Non ce l'ha un padre? Non ce l'ha una madre? Oh, allora perché falliscono i matrimoni? Perché i matrimoni sono costruiti sulla sabbia, non sulla roccia. Un matrimonio è un sacramento. Io ho fatto recentemente delle catechesi in giro, non mi ricordo dove, adesso non lo so, andate a sentire da qualche parte, dove parlavo del sacramento della confessione. Ho scritto anche degli articoli settimanali di Padre Pio. Come tutti i sacramenti, il sacramento funziona, tra virgolette, se colui che lo riceve è disposto a riceverlo. Tu ti vai a confessare, d'accordo? Hai fatto una serie di peccati e cominci a dire: di questi peccati ne confesso 5 su 10, perché gli altri 5 non me li fate per niente al prete, perché dopo mi fa una testa tanta, non me dà la soluzione, mi fa la predica che non finisce mai, tanto io sicuramente li rifaccio. Quindi. Però voglio confessare, voglio fare la comunione, dico queste altre 5 scemenze, non mi fa nessuna predica, mi dà la penitenzina piccola piccola, faccio la comunione e non succede niente. Che cosa succede secondo voi? Quella confessione non vale niente, non solo non vale niente, è un peccato, non ti confessare se stai così, non ci andare dentro al confessionale. Oh, non esci assolto, esci macchiato di peccato di sacrilegio, abbiamo visto parlando del primo comandamento. E il matrimonio è la stessa cosa. Chi va a benedire nostro Signore quel giorno lì? Chi? Cribbio. Io accolgo te, prometto di esserti fedele sempre nella gioia del dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Domanda, ma tu come sei arrivato al matrimonio? Sei stato capace di essere fedele al tuo sposo prima? O al tuo sposo gli arriva, perdonatemi come dire, il paragone un po' crudo, una macchina di quarta, di quinta, di sesta, di settima, d'ottava o di cinquantesima mano? Quanti l'hanno guidata quella macchina là? Perdonatemi l'espressione cruda. In quanti? O ha convissuto fino al giorno prima, come fanno adesso? Convissuto fino al giorno prima, non è che 2 mesi prima del matrimonio ognuno torna a casa sua. No, no, no, no, viva fino al giorno prima. E dal giorno prima del matrimonio dobbiamo prepararci e festeggiare. Che facciamo? Ve lo lascio immaginare. E il giorno dopo, secondo voi, Gesù Cristo dovrebbe benedire un matrimonio celebrato da una coppia che l'ha offeso con pubblico scandalo fino alla sera prima, e magari finita la messa, o durante la messa, ancora meglio, per farla ancora peggio, battesimo del bambino, oppure questa è l'ultima moda? Che ce le porta alle fedi nuziali? I figli, i nostri figli si portano le fedi nuziali, ma che bello! Questo succede oggi. E tutti quanti, applausi, bravi, bravi, fuori si portano, che no, si portano i risi a quintale. Una volta ce l'hanno avuto, ho visto 20 kg di riso, che sarebbe da prendergli in virale e farglielo poi pulire con la lingua. A quei tempi non c'avevo neanche chi mi aiutasse, dovevo stare mezza giornata con la scopa in mano. 20 kg di feste, strombazzamenti, ma festa di cosa? Con il corollario di tutti quanti gli invitati, tutti mezzi nudi, abito da sposa bianco, con la macchina di 50ª mano, e scollato. Così ti a fare il sacramento e la comunione. Vogliamo metterne un altro po'? Ma qual è la cosa grave? Che non parla nessuno di queste cose qua. Tranquillo. E alcuni ministri, spero per ingenuità, oh ma che bello, ma abbiamo sanato una situazione, e questi poverini stanno in situazione regolare, dobbiamo rallegrarci e gioire perché l'abbiamo sanata, adesso andranno d'accordo. Ma andranno d'accordo di cosa? Di cosa? Di cosa? Dove poggia la grazia di quel sacramento? Dove? Sull'offesa a Dio grave, perpetua, pubblica, scandalosa e reiterata, su quello poggia la grazia di Dio? Apparizione riconosciuta di Fatima 1917. Io la prima volta che la lessi, lo racconto sempre. Rimasi sconvolto perché 1917 non era il 1971, anno della mia nascita e anno dopo la sciagurata legge Fortuna. Nel 1917 sposavano tutti in chiesa e le macchine di 50ª mano non esistevano proprio, perché se tu ti azzardavi a presentare allo sposo o anche alla sposa. In alcuni posti la macchina di seconda mano c'aveva un'infamia pubblica e collettiva davanti a tutti quando c'era una cultura cristiana. E che è uguale oggi tale e quale. Non è che oggi le cose sono cambiate e quindi che gli fa? No, no, gli fa e come? Fatima, la Madonna dice alla piccola Giacinta, lo dice lei, non lo dico io. Ci sono molti matrimoni che non piacciono a Dio, non sono da Dio. Nel 1917, come mai? Secondo voi? Come mai? Si sposavano tutti in chiesa, nessuno si sposava al comune a quei tempi. Vuol dire che ci sono dei matrimoni celebrati in chiesa che non piacciono a Dio, se no la Madonna parla bambera, no? O dice scemenze la Madonna? Dice scemenze la Madonna? Non credo. Allora io che purtroppo ho tanti peccati, però Nostro Signore sotto la scatola cranica, dove ci sono sempre meno capelli, mi ha dato un cervello che funziona. E me l'ho chiesto, dico, com'è possibile che i matrimoni celebrati in chiesa non piacciono a Dio? Cosa c'hanno sti matrimoni? Cosa c'hanno? A quei tempi? Se a quei tempi poteva averci qualcosa che non ci piace al Padre Eterno, magari una coppia aveva detto, se ci sposiamo, ma faremo al massimo 3 figli. Già questo al Padre Eterno non gli piace. Non gli piace, eh? Oppure abbiamo salvato, come dire, l'esterno, voi cercate di capirmi, quindi della novità della macchina, però su quello che non è visibile ci siamo concessi più di qualcosa. Quel matrimonio non è benedetto da Dio. Ho raccontato 100 miliardi di volte, poi penso che un giorno o l'altro uscirà dalla radio qualche strillo che dice Don Leonardo dice sempre le stesse cose. Però sono cose edificanti, Padre Pio non diede la soluzione a una sua figlia spirituale, lungamente fidanzata, con un fidanzato, fidanzamento santo e casto, tuttora viventi sono questi due. Perché una settimana prima del matrimonio, una settimana prima del matrimonio, sono caduti in tentazione, a udite, a udite, si sono dati un bacio. Bacio, bacio, non il bacetto, un bacio. Apriti cielo, Padre Pio gli ha chiuso lo sportello in faccia e gli ha detto: non potevi resistere un'altra settimana, hai perso un sacco di grazie da parte dell'Altissimo, vatti a confessare da un altro. Boom! Chiuso lo sportello e non gli ha dato la soluzione. La motivazione era: a causa di questa tua debolezza, se te fossi sforzata, sei arrivata fino ad oggi, avresti ricevuto un autotreno di grazie in più che le hai perse. Solo per questo. Allora capite che quando tu sotto i pochi capelli e la scatola cranica che c'hai c'è qualcosa che funziona, eh? Fai 2 più 2 uguale 4, no? Se molti matrimoni non piacevano nel 17 a quei tempi, e questo fatto è avvenuto non molto lontano dal 1917, d'accordo? Quindi in un contesto ancora pienamente cristianizzato. Se Padre Pio dice per un bacio perdi un sacco di grazie da parte dell'Altissimo, cosa dice, cosa dirà il Padre Eterno di fronte agli sposi di oggi? Sentiamo. Voi conoscete coppie che possono arrivare davanti all'altare e dire: noi siamo stati così bravi nel rispettarci, nel conservarci l'uno per l'altro, che io darò il primo bacio questa sera dopo aver tagliato con le mani di mia moglie e di mio marito la torta nuziale. Il primo di una lunga serie di baci, e non solo di baci, che io darò solo e soltanto a lei, solo e soltanto a lui. Conoscete qualcuno? Può fare una telefonata per gentilezza se qualcuno conosce qualcuno? Allora, come pretendiamo che i matrimoni oggi durino? Allora, dentro questa situazione di disordine atavica, quindi che tu porti coppie completamente mal disposte a ricevere la grazia sacramentale, tu che fai? Anziché aiutarle e dirgli va bene, ripariamo dopo, facciamo un cammino di conversione, cerchi di riparare, ti prepari al matrimonio. Io tante volte mi è già successo, fai fare un periodo di castità ai fidanzati almeno prima del matrimonio, gli fai confessare, d'accordo? Eviti la pagliacciata dell'abito bianco, che è una pagliacciata, perché l'abito bianco te lo metti se te lo puoi mettere, se no il Padre Eterno si gira dall'altra parte, d'accordo? Perché l'abito bianco è un segno esterno di purezza, se non ce l'hai che te metti l'abito bianco. Ma a me mi piace, se ti piaceva così tanto dovevi fare i sacrifici necessari per potertelo mettere, l'abito bianco, se no non te lo metti. E non venite a dire che queste sono troppo severe. Questo è. Allora, dentro questa situazione che facciamo? Anziché dirgli, figlio mio, qui purtroppo abbiamo perso tempo, abbiamo perso colpi nella fase prima, quindi prega un po' di più, dite sempre il rosario in famiglia, vattene un po' più spesso a messa, in modo tale che ripariamo le conseguenze dei tanti macelli che hai fatto, arma della santa pazienza, e cerchiamo di unire la famiglia anche nelle inimitabili prove che ci saranno e che vi prenderanno impreparati, perché avete costruito comunque il matrimonio sulla sabbia. E adesso bisogna sbrigarsi su quella sabbia che c'è sta, di cercare da appiccicarci sopra un po' di cemento, perché almeno qualche trave non crolli. No, anziché fare questo che fai? Divorzio. Cioè, e adesso vogliono fare il divorzio rapido, no? Quindi che è troppo complicato, perché adesso devono passare, quando io ho studiato, minimo 3 anni di separazione. Adesso vogliono abbreviarlo, così ci teniamo il problema il tempo più presto possibile. Avanti così. Dopo lamentiamoci. Quando andiamo al telegiornale a sentire le follie che fanno alcuni giovanotti, che sono follie allo stato puro, dice: ma che sarà successo? Ma era tanto bravo! Ma era tanto un bravo ragazzo, ha piato un coltello e gliel'ha piantato sul cuore della fidanzata o della madre o di questo. Il male genera male, la morte genera morte. Noi non riusciamo con le nostre menti umane e con i nostri occhi umani a cogliere in essi e tutto il male che viene prodotto da queste cose, ma ci ricade tutto quanto addosso. E la colpa non è della società, noi dobbiamo fare mea culpa. Mea culpa, mea massima culpa, perché ognuno deve farsi l'esame di coscienza, perché comincia tu a non fare così. Hai vissuto il fidanzamento disordinato fino ad oggi, da oggi stop, chiuso, finito, manco un bacio, finito, chiuso, basta. Hai vissuto un matrimonio disordinato fino ad oggi, chiuso, basta. Te sei abbuffato dai anticoncezionali, li butti tutti al secchio e non li prendi più. Sei stato un pappamolla con i tuoi figli, che non sai come fa a dirgli che adesso, per esempio, che la sera se torna in orario decente, non si torna alle 4 di notte, dice: ma come faccio a dirglielo? Io l'ho sempre fatto fare il porco comodo loro, perdonatemi l'espressione. Gli dici: sono stato un cretino, da oggi nuove regole, perché se fino ad oggi ho sbagliato e ti chiedo perdono per averti aiutato ad andare all'inferno, non voglio più continuare. Quindi da oggi, new rules, dicono gli inglesi, nuove regole, abbi pazienza, papà e mamma sono due esseri umani come te, hanno fatto delle scelte sbagliate, hanno capito che erano sbagliate, da domani si cambia registro. Cari figli miei, non c'è chance. Altrimenti, se uno lascia fare, perde debolezza, per poco coraggio. Presto o tardi le conseguenze del male seminato ti tornano contro e dietro. E il male, il peccato, ragazzi, è morte. Non è morte fisica, è morte totale. È morte del corpo, in alcuni casi, ma è morte degli affetti. È morte della pace, è morte della gioia, è morte della serenità, è morte dell'amicizia, è morte della concordia, è morte di tutto. Non c'è niente di buono che deriva dal male, mai. Per questo che noi non dobbiamo avere paura. E se ci dicono integralisti, parlassero pure. Dinanzi ai valori, noi siamo, ci avete presente il granito allo stato puro, irremovibili, non si indietreggia manco di mezzo passo. Se è un valore doc, lo si difende. E si combatte. Sono rimasto da solo. Ci sta Elia. Avete letto il libro avete letto il primo libro dei re? Elia a un certo punto era rimasto da solo contro 40, 400 profeti di Baal, no 40. Li ammazza tutti quanti. A quei tempi era consentito, poi se fosse giusto oppure no, giudicatelo voi. Ecco, io ogni tanto qualche sogno lasciatemelo fare. E dopo c'è la Jezabel, la moglie empia del re Acaba, che se la piglia con lui e lo manda a inseguire, lo vuole ammazzare. E Elia piange e dice: sono rimasto solo io, Signore mio, non ce la faccio più. Prendi la mia vita perché non sono migliore dei tuoi padri. Il Signore lo consola e dice: no, non prendo nessuna vita. Lo porta sull'Oreb, la brezza leggera, gli dà la consolazione, adesso ritorna e ricomincia come prima e peggio di prima. Non avere paura, avanti. Ecco, avanti, avanti, come dicevano le truppe romane, che è il mio stemma di Facebook. Forza e onore. Che significa? Forza vuol dire il coraggio con cui noi dobbiamo avere il coraggio di sfidare pure tutto il mondo. E l'onore nel senso che io non mi vado a rimangiare per vergogna i valori fondanti in cui credo. Sei un miserabile, sei un vigliacco, sei un infame se fai questo qui. I valori non si rinnegano, non si tradiscono. Certo, non si può fare come quei tempi, non posso andare a ammazzare nessuno. Ma mi faccio ammazzare io piuttosto che rinnegarli. Non ammazzo nessuno, ma piuttosto che rinnegarli mi faccio ammazzare io. E mi vomiti addosso un mare di fango, tutta gloria per il paradiso. E vado a passare i guai come è successo a qualche prete. Guardate la storia di Padre Pio, guardate la storia di Don Olindo Ruotolo, guardate la storia di Don Attilio Nell'Irisolo e tanti altri che hanno passato i guai con la Santa Sede. Succede questo? E va bene, se questo Dio vorrà, passerei pure per questo. Ma sui valori non si transige, mai, perché Dio non vuole e perché da un minimo cedimento non viene altro che male, male e male, il male puro. E noi il male lo dobbiamo combattere in tutte le forme, con tutti i mezzi leciti e su tutti i fronti. Ci sentiamo, Dio piacendo, la prossima settimana. Vi mando per intercessione dell'Immacolata a tutti la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria.